and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Guarda che sorriso che ho oggi, lungo come la ricreazione che ci aspetta, la ricreazione più lunga della storia. È c'è così. Scritto sulla bacheca, sì, oggi sì. Ricreazione lunghissima. Sì, però quindi... non è ancora la ricreazione. Beh, ma quindi... praticamente, guarda, sto facendo il countdown. Però... e poi, guarda, Drago, respira anche tu quest'aria del Natale. Ma... il Natale è alle porte, a no? A me non fa più nessun effetto. Rilassati. Anzi, sai cosa ti dico? Che nemmeno da piccolo poi consideravo le vacanze di Natale le vere e proprie vacanze. Che perché tristezza. Finivano subito. Le vere ma vacanze erano quelle subito? Di luglio, agosto, ma no, a Natale si prende, si va a sciare in montagna, sì, però, si fa il capodanno, i dolci, si beve, però poi si... il cosa? 3 di gennaio si tornava a scuola, era veramente una specie di... beh, non no, so, dipende, dipende, le scuole poi ricominciano dopo l'Epifania, quindi si sta in vacanza fino al 6, ma al 7, so. A volte l'8, a volte c'è il ponte lungo, si torna il 10. Ma non so, sai, se i bambini poi sono tutti così entusiasti delle vacanze di Natale. Ma perché tu cosa passavi il Natale nella tua stanzetta? Giocavo a leggerti, sì, Monopoli. Sul Buteo e imparavi i nomi dei calciatori stranieri sul Guerin Sportivo. Vabbè, ognuno ha l'infanzia che si merita. A tavola! Nana. Questa minestra fa schifo, vieni qui che ti spacco la testa! Papà! È Natale! E passa Babbo Natale! E ora, bambini, ricreazione! Tu scendi da lassù, neve... Mamma mia, ci mancava pure... No, non sono così le canzoni di Natale, bisogna avere la voce bianca. Tu te la ricordi? E sciogli... ma... tu scendi sì, dalle stelle è più ma facile, no? No, ma è triste, a me non piace, mi fa venire la malinconia. Ma cosa? Come, musica Natale? Di Natale? Ma, questa ma... qua sì! Quella della neve, perché ci è un po' in minore, no? Preferisco quelle... Jingle Bells. Vabbè, com'è Jingle allora... Bells? Stiamo un po' un attimo. Jingle Bells, jingles all the way. Le campanelle, what fun it is to ride in a one-horse open sledge. Vabbè, dai, va bene. Tipo in sledge, fai saccente. No, saccente, ti insegna perché tu sei ignorante. Allora, bambino Alberto, cosa farà in queste vacanze di Natale? Ma io le vacanze non le faccio mica, io resto qui all'asilo. Ma come tutti gli altri bambini se ne vanno, almeno credo, No, mica tutti, eh. Alcuni rimangono qui. Ah sì, perché? Vabbè, la maggior parte è perché sono i loro genitori fanno il triplo lavoro, no? E quindi non sanno dove lasciarli. No, vabbè, ma che tristezza, vabbè, tempi della crisi così. Io invece perché i miei genitori, cioè, hanno dato la mia cameretta a un dissidente americano. Ma... che ha chiesto loro asilo nido. Ma cosa stai... un... un dissidente americano. Ma cosa vuol dire un dissidente americano? Ma che ne so, io, i miei genitori l'hanno chiamato così. E mi hanno detto che devono stare qualche giorno all'asilo. Cioè, di giorno, tutto il tempo all'asilo. E la sera della zia, a dormire. Ma poverino. Sì, perché questo dissidente americano, niente da fare, c'ha bisogno di qualche giorno un posto dove stare, no? Quindi niente da fare, sì, stare nella mia cameretta. Ma proprio adesso che è Natale, non sì, ho capito. Appunto. Ma infatti, ci ho pensato, secondo me questo dissidente era ospite di una famiglia che, giunto vicino a Natale, si sono detti, il dissidente, e il dissidente se ne va. Perché la festa siamo in famiglia, no? E quindi? Allora l'ha preso i miei genitori, io vado all'asilo. Vabbè, insomma, fai del bene in qualche modo. Sì, non ho capito però cos'è questo dissidente americano. Cioè, i dissidenti sono quelli che vivono sotto dittatura, no? Si schierano contro il regime, quindi pagano le conseguenze. C'erano una volta i dissidenti sovietici, caro bambino Alberto. Ci sono ancora i dissidenti cinesi. Cinesi. Ma i dissidenti americani io proprio non li ho mai sentiti nominare. No, anch'io. Ma io non lo so, sono i miei genitori che hanno detto così. Che questo tizio ha bisogno di asilo nido. Allora, scusate, se questo qui ha bisogno di asilo nido, ma perché non va lui all'asilo e io sto a casa mia, nella mia cameretta? O no? Le persone che chiedono asilo nido... asilo nido... Allora, qui noi dobbiamo intenderci, io voglio capire una cosa su questo federalismo. Ho capito che un posto in un asilo nido deve costare... asilo nido... allo stesso modo a Reggio Calabria come a Reggio Emilia. siamo d'accordo, bisogna far così. Asilo nido. Non ho ancora capito che risposta viene al seguente problema. Primo, cosa intendiamo per asilo nido? Asilo nido. Cioè, gli asili nidi italiani che standard devono avere? Asilo nido. Secondo, quanti posti d'asilo nido ci vogliono per i bambini italiani? Asilo nido. L'Europa dice 33. 33. Su 100 bambini. In Emilia sono 30. 30. La media italiana è 10. 10. A Reggio Calabria sono 2. 2. Asilo nido. Io voglio, per discutere di federalismo, sapere prima che obiettivo ci diamo per i posti d'asilo nido degli italiani. Diamo il diritto di asilo nido. Però scusa, non è che sto tizio qui, sto dissidente, alla fine è solo un vagabondo che scrocca vitto e alloggio a quei creduloni dei tuoi genitori? Lo scroccore. Siccome fanno i progressisti, lui arriva lì, sono dissidente americano. Il governo americano ce l'ha con me. No, questo qui è americano davvero, Cioè, l'ho visto io, vede. Ma cosa vuol dire? È americano ma non dissidente, cosa vuol dire? Non lo so, però americano è americano. Vabbè, però dai, starei con la zia, no? Alla fine, dai, cambiamo discorso perché è un po' triste questa. Starei con la zia e con i cuginetti, giusto? Beh, il cuginetto è uno solo. Ed è paraplegico. Triste. Come Heidi con Clara. Sì. Ma Heidi è di una femmina. Vabbè, cosa c'è? Dai, mettiti un po' nei panni. Sei lì, tieni compagnia, sarà molto contento lui, no? Il nonno? Il nonno di Heidi. No, il nonno di Heidi non c'è in questa storia. Poi tuo nonno è morto, sì, adesso infatti, non so quale di queste ma cosa giocate col cuginetto? Giocherete mica Heidi e Clara col nonno? No, facciamo dei giochi moderni, Lo facciamo giocare a YouTube. Ah? A YouTube. Ma cosa vuol dire? Cosa vuol giocare a YouTube? Sì, che poi all'inizio, quando vogliamo giocare a YouTube, lui non è che è tanto contento. Ma poi lo convinciamo? Sì. Ma allora giochiamo. Ma io non ho capito, cosa vuol dire giocare a YouTube? Giochiamo... Guardate il computer, cioè guardate i filmati. No, giochiamo a fare quelli che su YouTube torturano i poveri bambini paraplegici. Cosa capo? No, non avevo capito, adesso ho capito. No, vabbè, ma ti sembra una cosa da persona civile? Vedi a cosa serve YouTube? A dare esempi negativi ai piccoli, che vedono queste cose e li imitano senza sapere vabbè, perché. Ma sei esagerato, guarda che fanno solo finta di molestare un bambino sulla sedia a rotelle. Com'è che si chiama tuo cugino? Luca. Luca, scusa, fan finta di molestare Luca, non è mica vero, no? Fate finta, no? Fan finta. Cioè, facciamo finta. Cioè, quando lo buttiamo giù dalle scale, lo facciamo per finta. Ma cosa vuol dire? Poi facciamo fare il ballare il valzer, no? Ma vabbè. Beh, è sempre la finta, no? Io non vado oltre con le mie prediche, no Alberto, fermo, perché sennò qui mi prendete per un vecchio trombone. Però non è bello giocare a YouTube, bambino Albertino, ok? Non è bello. Beh, non è che bello da dire giocare a YouTube. E poi, scusa, sbarazzarsi dei figli per accogliere un, virgolette, dissidente americano è bello, invece. Ecco, giusto, bravo. Però aiutare i dissidenti, chiunque essi siano, è una cosa nobile. Sì, ma non i dissidenti americani. Perché? È come dire che abbiamo i dissidenti italiani che vanno in giro per il mondo a chiedere asilo. Uno c'è. Ma chi? Il bambino Cesare Battisti. Vedi, dito! Drago, devi lasciar stare i dissidenti italiani, se no si apre tutto un altro filone del discorso e ci porta troppo lontano. Dai, mi è venuta un'idea. Perché non giochiamo a YouTube? Ma no, ma come adesso? Ma smettila, poi non mi piacciono questi giochi. Dai, che mi annoio. Bambino Alberto, dai, giochiamo. Dai, giochiamo a YouTube. Ma cosa? Facciamo che voi eravate due barboni, no? Che dormivano sotto i cartoni di notte. E io vi scospargevo di benzina e avevo fuoco. Per finta. Vabbè, ma le fiamme si fanno per finta. Per forza, facciamo che ce le immaginiamo. Le fiamme. Ma no, così fa schifo, dai! Sennò non è neanche divertente! Vabbè, allora il barbone lo fai tu. Io devo fare per forza fuoco, no? Sennò su YouTube non viene mica bene, no? Vabbè, allora, facciamo invece che la ricreazione finiva e che ce ne tornavamo tutti al caldo? Ecco, hai visto? Vabbè. Ciao, bambino Alberto, coraggio! Coraggio per il dissidente, ciao, Vabbè, allora siete degli strozzi! Ma no, figa, il parolacciometro! Ma no! Vabbè, fa niente, tanto non pago mica io, pagano i miei genitori! Anzi, io lo dico ancora, Figa! Porco Giuda! Ma come porco Giuda? Ma allora cos'è che si può dire? Se porco Giuda, neanche porco Giuda? Ma no! Porca miseria! Ma no, che la miseria! Basta! Ma vaffa... Ma porca... Mandate le vostre cartoline a chiedoasilo@radio24.it.